questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Caro Pardo, trend dei nostri ascoltatori, hai sentito la sigletta? Straordinario, c'è del talento artistico, ma non avevo dubbi. 800240024 se volete cantare con noi. Sì, fare del freestyle di noi rapper. Giorgio De Luca, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Sei arrivato tardi qui in studio. No, no, ero qui da 40 minuti. Cosa mi hai portato al pranzo? No, niente, non ho neanche pranzato, ecco. Che eri a fare? Prendere il sole? No, ho fatto un pezzo per il vecchio studio sport, che ormai si chiama Sport Mediaset delle 13. Sì. E poi niente, ho fatto due cose veloci e non ho mangiato, però. Vabbè. Ho mangiato una fetta di pastiera, devo dire, una cosetta. Ero quasi tentato a fare il digiuno anti-porcellum per un attimo, ho detto approfitto di questa occasione, faccio dieta, digiuno anti-porcellum, e invece ho visto la pastiera e ho detto vabbè, non si può, ti faccio portarsi un paio della mortadella. No, no, è tutto a posto, anche che abbiamo una puntata scoppiettante, straordinaria, no? Che sia stato Toir a ordinare questo sole a Milano, non vedevamo il cielo da 20 giorni, cielo color acciaio, oggi firma, secondo me ha sganciato qualcosa a chi di dovere, oggi... interisti un po' più di morale, un po' più contenti. Beh, sì, anche perché insomma è ovvio, è evidente che siamo di fronte a un passaggio storico e che comunque insomma al di là dell'aspetto romantico di tutta questa questione poi bisognerà capire se caccia o non caccia i Danè per fare il mercato, no? Si dice così, Danè, tu che sei un po' più milanese di me, ecco. Sì, senti la musichetta, abituati, perché sai bene come tu dici, sarà il nuovo inno, sarà il nuovo inno dell'Inter. È chiaro come insomma la sensazione di ieri fosse stato questo grande, così, questo grande velo di tristezza per gli interisti, perché alla fine l'Inter negli ultimi 58 anni è stata o morattiana o nell'attesa di Moratti, no? Certo. Prima Papa Angelo per 13 anni, dal 55 in poi, poi sai, è stato tutto un'attesa. A me è sembrato così. È arrivato Massimo Moratti, torna davvero l'Inter, ci sono stati questi 18 anni così. No, ma insomma, il calcio è sempre meno sentimentale, ma rimane una roba sentimentale, quindi è per ovvio. Gli interisti di più, io sono convinto di questo. Bah, non lo so, insomma, sicuramente per gli interisti Moratti è una figura leggendaria. Allora, visto che non siamo interisti, chiediamolo a un interista, che dici? Beh, senz'altro. Uno di quelli bravi di livello, molto più bravo di noi. Perfetto. Molto. Altra categoria. Enrico Mentana, buongiorno. Buongiorno, grazie. Buongiorno, come va? C'è tristezza? Ma no, che tristezza. A parte che... ho, come dire, la fortuna di essere vaccinato, ho vissuto l'Inter di Fraizzoli, l'Inter di Pellegrini, non era l'Inter di Moratti, no? Eppure anche quella a suo modo è stata vincente, non ci si può legare, si impara, no? Nel calcio si impara quando fai il tifo, poi il mestiere che faccio io, che fate voi, è in qualche modo riesce a vaccinarci rispetto all'eccesso di emozioni, dobbiamo prendere le distanze dalle emozioni. E poi sappiamo come va il mondo, cioè abbiamo imparato a non soffrire quando se n'è andato noi interisti Ronaldo, Bobo Vieri o Rummenigge, tante figure che avremmo voluto avere per sempre nel nostro album delle figurine tutte interiste, ovviamente figuriamoci se non viviamo un trapasso che è una rivoluzione, però soltanto con gli occhi rivolti al passato. Ma quell'Inter lì, quella di Fraizzoli, di Pellegrini, viveva nell'attesa di Moratti? Diciamola, no, chi è un po' più giovane, era quello comunque? No, assolutamente no. Viveva perché era l'Inter. Non farà piacere ai tifosi più integralisti, ma guardate cosa è successo alla Roma. Sembrava che fosse finito il mondo perché arrivavano dei conquistatori, dei mercenari, dei senza Dio del pallone, degli americani che non capiscono una beata mazza di calcio, poi all'inizio della stagione la squadra è stata fischiatissima, e poi adesso sono in testa alla classifica a punteggio pieno, nessuno si ricorda più del passato, Viola, Sensi e cose di questo genere. È vero che c'è Totti che è un elemento catalizzatore, ma nel calcio ci sta, le grandi squadre contro cui ameremmo giocare se fossimo in Champions League sono in mano a persone che parlano l'arabo o che comunque sono del tutto esotiche rispetto al paese di appartenenza delle squadre. Sì, curioso questo, l'esotismo di Twitter accompagnato però dall'idea di non arrivare con un camion di soldi da versare nel calcio italiano. Mi sembra che arrivi con idee molto diverse rispetto a quei paperoni magnati arabi, russi, che hanno preso in mano altre squadre europee. Per carità, però che cos'è stato Moratti se non un paperone? Sì. Un paperone innamorato dell'Inter, ma pur sempre un paperone. Quei paperoni ci fanno impressione perché i vari Mansur, cose di questo genere, ci immaginiamo che non sappiano neanche se la palla è quadrata o rotonda, mentre i Moratti si legano per storia visceralmente all'Inter. Ma quante volte abbiamo pensato, e forse anche lo stesso Moratti ha pensato, che questo legame viscerale poi non aiuta una comprensione razionale dei problemi. Vi ricordate quando l'intera stampa italiana prendeva in giro Moratti per l'infatuazione calcistica per il Cino Recoba, che veniva pagato più o meno come una squadra intera messa insieme di media classifica. Qual è il tuo mito nel Pantheon nell'azzurro di Enrico Mentana? Chi c'è? Facciamo una gerarchia. No, ma il mio Pantheon è come tutti i Pantheon degli interisti. E comunque, ecco, se c'è un Ronaldo, Rummenigge, no, allora, cioè, non si può non pensare da interista, ma non solo da interista. Penso che forse qualcuno di voi sia d'accordo che Ronaldo sia stato il più grande fenomeno che sia apparso su un campo di calcio. Io non ho mai visto nessuno, certo, possiamo parlare della non longevità calcistica, di tante cose, ma Ronaldo era una cosa pazzesca, più di Maradona. Ma molto più di me, cioè era un giocatore che uno scatto di Ronaldo con la palla al piede, quel famoso terzo gol alla Lazio nella finale di Coppa UEFA, cioè se uno se lo riguarda, poi certo può essere bellissimo vedere il gol di Maradona alla Inghilterra che scarta mezza squadra, però le cose che ho visto fare a Ronaldo non le ho viste fare a nessun altro giocatore, e all'opposto, perché mi ricollo che nella mia cornice giovanile, il giocatore forse più lento ma sublime che abbia conosciuto era Mariolino Corsa. Eh sì, guarda, sai che io sono quasi d'accordo con Enrico Mentana sulla grandezza di Ronaldo, cioè Ronaldo. Secondo me Maradona un pelo sopra, però stiamo parlando di giocatori da Maradona sì, è un fenomeno, vuoi più bene a mamma o papà, dai su, diventa no, questa qui come? Dico, vuoi più bene a mamma o papà, cioè sì, stiamo parlando capito? Sì. Diciamo che però voglio dire proprio papà mentre non direi mai che Cambiasso è il più grande giocatore del mondo, eppure ci sono legatissimo, mentre sono legatissimo a Milito, ma non direi che è il più grande fenomeno in circolazione. Posso invidiare Totti alla Roma, posso invidiare tanti altri giocatori, posso rimpiangere Balotelli eccetera eccetera, però su Ronaldo io non ho nessun dubbio, non ho mai visto giocare, sono figlio di un giornalista sportivo, ho visto giocare fin da bambino i grandi campioni da vicino. Io uno come Ronaldo con i mezzi atletico-tecnici di Ronaldo non ho proprio mai visto. Forse si può impazzire per Ibra per una stagione, poi si scopre che appunto Ibra è per una stagione. Sì. No, è quei film che fanno pieno al botteghino ma non entrano nella storia del cinema. Si può chiedere a Enrico Mentana di aspettare un minuto il traffico? Si può fare questa cosa nella vita? Sì, anche se non ho la patente, quindi seguirò con distacco. Però comunque cultura generale. Cultura generale. Sentiamo Nogarone Rocca che cosa ci dice oggi. Traffico. Tutti convocati. Guarda, avrai notato anche tu che la 3 è chiusa. No, che il direttore Enrico Mentana, ha citato così en passant nella galleria un nome che provocherà una domanda che adesso farai tu. Che non possiamo non fare, perché sennò, ecco, no, ci puoi dare una sintesi alta di tutta questa vicenda Balotelli, poi magari per tutta la perché ne parliamo e basta e siamo un po' vicini alla saturazione. Sì. Balotelli è fatto come quei campioni che sono tali in campo e magari non aspirano a esserlo nella vita, da cui si pretende che invece siano maestri di vita, ma non sarà mai così, è come Cassano, da ragazzo si diceva sì è giovane, è un po' balordo, ma è giovane. Poi è cresciuto, adesso ha un'età, ma in nazionale, ma è un po' valore. Bisogna prenderli o lasciarli. Si sa come sono fatti questi calciatori. Non è un caso che le grandi scintille le abbia fatte con Ibra, perché Ibrahimovic era proprio il campione che ha realizzato che Balotelli voleva essere, senza rinunciare al fatto di essere sostanzialmente uno cresciuto nella strada della vita e che non si fa dire dalle persone con il baffetto all'insù come si devono comportare, no? Quello è tutta la storia dell'antica Camorra oppure no, dell'aver fatto la gita a Scampia oppure no, tutte queste cose ma a noi di un calciatore interessa non se è omofobo o no, non se... Ma come gioca, certo. Ma come gioca, e non possiamo pretendere da Balotelli che sia un esempio per le generazioni. Quella è stata la politica a inventarsi la generazione Balotelli, semplicemente perché Balotelli è il primo italiano di colore nero che ha successo, no? Ma non si può pretendere da lui che sia un simbolo se non lo vuole essere. Lui è un simbolo del calcio come deve essere, del calcio come si gioca con la grande forza di un istinto e di uno stile che non gli nasce dalle scuole di calcio, gli nasce dalle sue doti innate, no? E non si può però pretendere appunto che Balotelli sia il monsignor della casa della nuova generazione, non è questo. Lui deve imparare a essere uomo. Io idealmente abbraccio Enrico Mentana per aver detto queste cose, che sono poi quelle che penso io, che dico da giorni, attirandomi gli strali di un sacco di ascoltatori. Però gli ascoltatori in genere chiama il calcio. Enrico, non lo sopportano. È il giocatore più odiato d'Italia. Ma se noi lo illuminiamo fuori dal campo, più ancora che in campo, la cosa continuerà così. Cioè, la prima volta che ho sentito a Torino gridare non esistono neri italiani mentre giocava Balotelli, non mi capacitavo che si potesse essere così dementi. Però Balotelli fa di tutto ovviamente per non allontanare da sé gli odi degli altri, perché gioca bene, perché è un campione, perché è insofferente e tutte le altre cose che sappiamo. Però se noi ci limitassimo, come sarebbe doveroso fare dal punto di vista critico e anche da tifosi, ci limitassimo a giudicare il Balotelli in campo, che ha ancora tante pecche peraltro, come tutti quelli che ne sanno più di me di calcio possono convenire, se ci limitassimo a questo avremmo già fatto tutto il nostro lavoro. Invece interpellanze parlamentari, tutte queste perfettamente non fanno che aumentare l'interferenza. Se io fossi Balotelli li manderei a quel paese. Infatti lo fa senza nessun problema. Senza vicini, sì. Io volevo prima di salutare Enrico Mentana fargli un'ultima domanda sull'arrivo di Toire su un sistema un po' più grande, un po' tutti immaginiamo che Toire voglia arrivare in Italia e costruire uno stadio come volevano fare gli americani a Roma. Probabilmente non ha una conoscenza così approfondita della dialettica italiana. Arrivare con i soldi in mano e dire voglio il mio stadio non è una cosa così semplice, così automatica in questo paese. Io però sono viziato dal fatto di essere davvero un nostalgico conservatorissimo. Io sono entrato allo stadio di San Siro che avevo 5 anni, non c'era il terzo anello, comprerei San Siro. Tutti adesso c'è la mania di fare lo stadio nuovo, no? Distruggere Wembley per fare l'Emirates, tutte queste cose che abbiamo visto in giro per l'Europa e che stiamo forse per vedere in Italia, dove per la verità gli ultimi ritocchi e gli ultimi stadi sono stati costruiti per Italia 90, quindi sì, non ieri, certo. Ed erano un disastro. Siamo al quarto di secolo, se posso che qualcuno lo faccia oggi. E c'è solo l'esempio dello Juventus Stadium. Ora, diciamocelo molto francamente, forse ha ragione chi vuole farsi lo stadio. Io lo farei fare al Milan e mi terrei San Siro solo per l'Inter, se dovessi proprio scegliere. Se uno però si compra una squadra di calcio di valore internazionale, anche di nome internazionale, solo per fare un'opera edilizia a Milano, siamo ridotti male, no? Vediamo come evolve sta roba degli stadi. L'Inter è una delle poche squadre che può riempire uno stadio grande, no? Come San Siro. Non ha bisogno di uno stadio di più ridotte dimensioni o uno stadio che diventi anche come il Nou Camp, il museo e tante altre cose. Sì. Lo si può fare se magari l'altra squadra di Milano si fa uno stadio suo, visto la propensione edilizia del proprietario del Milan. Quindi il consiglio è convincere Toir a convincere a sua volta il Milan a farsi lo stadio terzi San Siro. No, ma magari Toir non c'è neanche per l'anticamera del cervello. Mi pareva più il figlio di Moratti che fosse interessato a questa opera edilizia, per dire il vero. Poi vediamo, cioè non è da questo che giudicherò comunque la presidenza Toir dallo stadio o meno. Bisogna vedere. Mi piacerebbe una cosa, dico per non vi faccio perdere altro tempo, mi piacerebbe che dopo tanti decenni l'Inter cominciasse molto davvero a investire sui talenti italiani, perché va bene essere internazionale, ma ogni tanto avere un italiano in formazione non mi spiace. Non fa male. Grazie. Grazie, grazie Enrico. Grazie. Grazie. Buona giornata. Ciao. Buon divertimento, sarà una lunga giornata. Io credo che Mario debba essere lasciato in pace, perché è un ragazzo bravo, un ragazzo che deve rimanere sereno, perché deve pensare solo a giocare a calcio, perché nel calcio, nel campo, può essere dire veramente il più forte, gli si mette addosso troppa pressione, quindi è un giocatore anche giovane che va lasciato in pace e basta. E il Sharawi questo, ascoltatori, via, eh? Partiamo? Luigi, 8.0024, ci siamo e come? Mirko da Lucca, vamos a ganar, Mirko! Salve, io da tifoso juventino sono un po' preoccupato di Moratti che vende l'Inter, perché, eccola, diciamola così, sempre senza ironia, eh? Con ironia, Moratti garantiva, a parte l'effetto Calciopoli, che l'Inter ancora per 10-15 anni non avrebbe vinto altro. Se arriva un presidente un tantino un pochino ferrato, l'Inter arriva di nuovo lì a tentare di vincere come ha fatto in passato. Fa più paura, quindi, dal punto di vista di uno juventino, fa più paura l'Inter di Toir di quella di Moratti. Esatto. Grazie, ah. Stefano da Verona. Aspetta, linea posso buttare anche agli ascoltatori una riflessione che sarà è questa. Allora, di Toir è arrivato, non sappiamo bene che cosa porti, certamente non porterà una vagonata di multimiliardi come Abramovic e quelli che sono venuti dopo di lui. La prima mossa che dovrà fare Toir, secondo me, e che sta già facendo Toir, e io vorrei sapere se questa mossa l'ha già fatta e chi gli dà qualche suggerimento, ebbene sarà quello di capire chi sarà il suo uomo di calcio in Italia. Oriali? Leonardo? O Leonardo. Leonardo o anche Leonardo, va bene, sì, eh? No, non lo so, però insomma credo che ci siano delle possibilità. Stefano da Verona. Sì, salve, un giorno, grazie per avermi convocato. Vi quando vuoi, sempre con gioia. Niente, volevo dire un paio di cose. Beh, la prima, Balotelli sappiamo tutti è un fuoriclasse e deve maturare, deve crescere, però una cosa che non riesco a capire è perché non riesca mai a sorridere una volta. Anche ieri sera ha segnato, preso la palla, è andato verso il centrocampo. Lui deve sapere che ha una dote che è invidiata un po' da tutti i ragazzi, e prende uno stipendio che è una cosa favolosa, però non riesco a capire come mai quel ragazzo sia sempre triste. Non sorride mai quando segna o con i compagni o quant'altro. Perché ognuno vive quei momenti come ne ha voglia. Lo so, ma deve essere il calcio, deve essere anche gioia, perché il trasmette sì, anche ma, ai ragazzi. Lo so, ma non è che non, Stefano, ma non è che non sia contento, però non possiamo chiedere a un giocatore di esultare nel modo che piace a tutti. Ognuno vive quei momenti come gli pare, come li sente. Basta e ci sta. Poi posso essere d'accordo che il gol, che è il momento della gioia massima, sarebbe bello vederlo con un sorriso, ma ognuno fa. Però io per paradosso, Pier, preferisco questo che fa la smorfia, o chi fa la smorfia che finge, certo, del pistola che si toglie la maglietta e becca il giallo penalizzando se stesso la squadra, no? Tendenzialmente quando c'è il gol il tifoso della squadra è contento perché c'è stato il gol, neanche lo guarda. Vuoi sposarmi? Chi è? Vuoi sposarmi? No, grazie Leo, grazie, è squisito. Bene, ti fermiamo per la borsa? Poi sì. C'è Giuseppe da Reggio Emilia. E poi sì. C'è Giampiero da Torino. Poi c'è Giampiero da Torino. Già. 800 24 0024. Bene, perché un po' genovese. Perché genovese? Perché genovese? Ah, già, giusto. Genovese, sarà di Italia. Andiamo. Tutti convocati. Guarda, è arrivato l'ascoltatore che stavamo aspettando, Giampiero da Torino. Giampiero da Torino, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci dica. Come sta? Io sto bene. Giampiero Ventura, come va? Tutto bene? Sì, tutto bene. Grazie. Dove sei? Dove, raccontaci, come la giornata del Torino di oggi? Allora, ci si sveglia, classica colazione, bagnacauda, gianduiotti, no? Sì, beh, un classico. Cioè tutte le mattine un po' di bagnacauda, poi facciamo un salto alla mia giornata di oggi, è pesante, nel senso che dalle 8:30 che sono al centro della Seasport abbiamo fatto allenamento, abbiamo un pasto frugale all'1:30, col plin, no? È un classico al pomeriggio, all'ora di pranzo sempre il plin e un po' di vitello tonnato per stare leggeri, e poi nel pomeriggio facciamo il secondo allenamento, finiremo verso le 18, 17:30, perfetto 18. Per l'aperitivo e poi l'aperitivo e poi Sprizza a profusione, bello. No, no, però al di là di, forse ho la speranza questo, anch'io con questa alimentazione. Praticamente fra un mese sono dietro a un ricovero, mangiando così sì. No, però noi sappiamo perfettamente, che perché abbiamo le talpe, che la sconfitta del Torino nel derby è esclusivamente colpa sua, perché glielo spiego, è andato a cena con Chiambretti, nello stesso posto, stesso menù, poi lei ha voluto il cosa vuole? Il profiterol, non mi ricordo, sì, o il tiramisù, comunque sì. Non era previsto e lei l'ha mangiato. Sì, ma che a volte voglio dare una svolta alla mia vita e non ce l'ho tentato e mi è andata male. Infatti non toccherò più un profiterol da qui alla mia permanenza a Torino, questo è poco ma sicuro. Per l'Inter c'è qualche scaramanzia particolare, domenica sera 20:45 Torino-Inter? Non lo so ancora. Probabilmente va arrivare a mangiare la tagliata, la gotta sono di mangiare tagliate, nella speranza, visto che portava bene il primo anno, ho continuato ad andare a mangiare la tagliata, quindi può darsi che una di queste sere vada a mangiare, però credo che poi al di là della cabala poi conti la squadra, le conoscenze, partita vera, presentarsi, partita difficile per noi chiaramente. Presentarsi tutti in campo con la maglia indonesiana, magari, sarà la prima Indo-Inter e voi la terrete a battesimo. Pensi che libidine vincere questa partita? Beh sì, questo sì, sarebbe libidine comunque a prescindere, ma poi rimarrebbe scritto nella storia, no? Sarebbe la prima partita una volta passata di mano alla società, quindi rimarrebbe una pagina importante, sarebbe bello poterla scrivere, non è facile perché siamo un po' in emergenza, però nel calcio mai dire mai. Inter-Roma l'hai studiata? Quali sono i punti deboli? Ma l'Inter è la classica squadra di Mazzarri, cioè che è bravissima a accelerare negli spazi, poi c'ha giocatori che mi sembra che abbiano sposato in toto la filosofia dell'allenatore, mi sembra che siano estremamente tonici e compatti, quindi una partita. Del resto l'Inter, tranne la partita con la Roma, il resto aveva vinto sempre, tranne un pareggio a Cagliari dove stava vincendo, quindi è una partita non facile da affrontare, una partita che però viene dopo le nazionali, quindi vale per me che ne ho pochi, ne ho cinque, che sono arrivati tutti malconci, non so come arriveranno quelli dell'Inter, però in realtà rimangono pochi giorni per preparare una partita importante così. Cosa sta funzionando meglio nel Torino di adesso e che cosa ancora da rivedere? Ma funzionando è che quest'anno per una serie di circostanze abbiamo cambiato molto, molti giocatori, anche il modo di stare in campo, però è un gruppo assolutamente compatto, al di là delle frasi fatte che vengono dette di solito nel calcio. C'è il piacere di andare al campo a fare allenamento, è un gruppo che si allena con grandissima disponibilità, grande impegno e grande voglia di stare insieme, questo per un allenatore è assolutamente fondamentale. Cosa c'è da migliorare? Beh, chiaramente molti sono giovani, alcuni sono esordienti in Serie A, altri vengono da campionati esteri, quindi non conoscevano la Serie A, un pizzico di esperienza se la devono fare sul campo, e direi che in queste prime partite sarebbe stato straordinario se noi avessimo in classifica quello che avremmo meritato, perché almeno 4-5 punti clamorosamente lasciati per strada, qualcuno per colpa nostra, molti per situazioni un po' particolari che sono avvenute in campo, però ripeto, è una squadra questa che se avesse 5 punti in più o 4-5, basta pensare ai due del Milan e ai due della Sampdoria di domenica scorsa, sarebbe quinta in classifica, e direi che per una squadra come il Torino che 2 anni fa era in Serie B sarebbe questione di bandierina, qualcosa di importante. C'è una chiamata sotto, è Mazzarri che la sta chiamando. No, volevo dire Maurizio Pistocchi, che è un mio amico, il collega, è passato alla storia l'anno scorso perché gli è uscita questa frase. Robben mi ricorda molto Cerci, hanno fatto anche i gruppi su Facebook, ma in realtà era essenzialmente un'iperbole. Ecco, Cerci però se continua così a che livelli può arrivare? Insomma, ha superato le migliori aspettative, nei tempi di Pisa, lo conosci? Che cosa può dare ancora e dove deve lavorare? Ma Cerci è un giocatore dalle potenzialità enormi, che ha perso un po' di vista qual era la strada da seguire, qual era il percorso da fare per diventare un giocatore importante, quindi quando dico importante significa sopra la media del calciatore in Serie A, perché le potenzialità ce l'ha tutto. A Pisa aveva iniziato, poi l'abbiamo perso un po' di vista, l'abbiamo ripreso l'anno scorso e con un lavoro non facile lo abbiamo forse riportato sul percorso giusto, e adesso si allena, ha capito l'importanza l'importanza dell'allenamento, ho capito l'importanza del giocare per la squadra, ho capito l'importanza del voler diventare per essere. Quindi credo che, spero per lui e per noi naturalmente, che la strada sia quella giusta. L'anno scorso è stato determinante negli obiettivi che dovevamo raggiungere, quindi una salvezza anticipata, essendo non eravamo una neopromossa l'anno scorso. Quest'anno abbiamo cambiato modo e lui è un po' più libero di spaziare davanti. C'erano grandi dubbi sul fatto che lui lo potesse fare, il fatto che sia oggi capocannoniere direi che forse erano dubbi tra virgolette infondati, quindi proseguiamo su questa strada nella speranza di dare a lui la possibilità di essere un giocatore universale. Prima era ancorato là su una fascia, credo che quello sia il suo ruolo ideale. Un sogno mondiale che ci sta tutto. Prima faceva il Lazzarone, adesso ha imparato a capire che il talento ce l'ha. Se fa il giocatore e non fa il Lazzarone, riesce ad esprimerlo. Senti, io la saluto chiedendole una cosa. Per favore, potrebbe lamentarsi con il suo presidente? No, perché se si lamenta Conte che gli hanno preso Tevez, Llorente, eccetera, io vorrei che anche lei si lamentasse per qualcosa. Ma Torino ci si può lamentare una alla volta. E soprattutto dalla parte sola, quindi direi meglio evitare. Invece, mister, c'è il consiglio decisivo per battere l'Inter, che ci manda un ascoltatore, dice: bagna cauda a tutti i difensori per tenere lontano le punte, che può essere una chiave, secondo me, interessante. Mazzari gioca con una punta sola. Però è anche centrocampista in cura, no? Poi gente la saluta, le chiede se il 4-2-4 finirà mai, ma non finisce mai il 4-2-4, no? Mister Libidine. No, 4-2-4. È una categoria dello spirito, Non finisce perché è quello che mi diverte di più farlo. Appunto. Quindi quest'anno abbiamo dovuto cambiare perché non trovavamo i giocatori, gli interpreti adatti per bravo fare, vede che si lamenta, vede che si lamenta perché non ha perché Cairo non ha comprato. Come mai nessuna big t'ha chiamato, chiede Luca? Come mai nessuna big t'ha chiamato, come mai? Perché questo è un errore che ho commesso in passato, è un errore che ho fatto tanti anni fa quando pensavo che bastasse essere, e invece bisognava capire che l'essere diventava più importante, era necessario apparire. Quindi il passaggio generazionale dal fare, dal... Che succede? Mister? Mister? Sei sparito? Stai parlando con una... È Cairo. Tornato. Ho perso il momento generazionale quando c'è il passare. Io pensavo che fosse importante essere e non capivo che in quel momento il passaggio era che era diventato apparire. Vabbè, facciamo un corso di comunicazione, a parte te la cavi già benissimo. Facciamo una dieta equilibrata e poi andiamo a vincere. Cioè, che devo fare una scelta ben precisa: o bagna cauda per portare a casa i tre punti o se no mantenere il fisico. Quindi adesso vedrò di fare del mio meglio. Grazie a nome del Proloco di Asti, di Ercelli, eccetera. Parlato, la bagna cauda è buonissima, possiamo grazie, dire. Grazie, mister. La bagna cauda è buonissima, ha questa piccola controindicazione che ti si impregna la pelle di un aroma, diciamo, di un umore che non va mai più via in tutta la tua vita. Cioè, forse... Non mi piace l'aglio. Ah, vabbè, ho capito. Perché tu sei sempre... Non mi piace l'aglio. Se vuoi sposarmi? Vuoi sposarlo? Non ti piace l'aglio? No, certamente in certe circostanze non è simpatico, ecco, presentarsi all'appuntamento Giuseppe, con la storia e con Giuseppe da Reggio Emilia. Giuseppe da Reggio Emilia, ti piace l'aglio? Sì, ecco. Bene. Aglio e peperoncino sono spaghetti. Ah, molto interessante. Sì, no, ma continuiamo a mettere il dito nella piaga sul mio mezzo digiuno di oggi. Prego. Allora, tre cose veloci. Io temo che la Roma si stia avvicinando all'ottava vittoria consecutiva, perché la trovo molto più forte, molto più equilibrata del Napoli. Invece il Napoli in difesa c'ha qualche problema. Poi, seconda cosa, saluto il fratello nerazzurro Mentana. Sì. E la terza cosa è: sono favorevolmente stupito dall'umorismo degli juventini. Ma guarda te come sono bravi. Sul discorso di Moratti. Potremmo dare un po' di miliardate anche a loro anziché darli a Crozza. Veramente sono molto bravi. È lo spirito del gioco. Grazie Luca, Giuseppe da Reggio Emilia. Lui dice che la Roma è più forte del Napoli. Non sono così convinto. Non mi sembra... Penso che la Roma sia più equilibrata del Napoli in questo momento. Detto questo, il Napoli ha delle individualità, soprattutto davanti, che possono... Però sulla compattezza è un ragionamento che ci sta. Una squadra che certamente è quella che sta meglio. Grande partita. Non vedo venerdì sera. Mancano mancano solo 48, mancano solo 54 ore. Luca da Milano. Venerdì facciamo la schedina? Facciamo quella pubblica. Chiamiamo pure Ettore da Milano e facciamo una schedina pubblica. Ah, certo. Cosa dici? Ma la schedina, però senza spendere tutti quei soldi che ho speso. No, facciamo due colonne. Ah, due colonne che anni 70, come il San Siro di Mentana. Mi sei tornato nostalgico. Facciamo un, come si chiama, picchetto? 5 partite, scegliamo 5 partite e chiamiamo Ettore, che tanto sa tutto. Esatto. E giochiamo i soldi di Ettore, ovviamente. Luca da Milano, eccolo qua. Luca da Milano, aspetta, dopo il traffico. Scusami, Luca da Milano, sentiamo allora le novità, le ultimissime sulla 3. Traffico. Il Torino ieri non ha tirato in porta, però per provocare i juventini basterebbe scrivere 11 ladri in campo, per esempio. Tutti convocati. Dopo le informazioni sul traffico, Luca da Milano, che non so se è in viaggio. Luca? Sì, buongiorno, sì, grazie. Dov'è? È in macchina? Sì, in macchina. Longarone Rocca? No. Più a nord. Più a nord, va bene. Più a nord. Sì. Allora, volevo che mi aiutaste a completare un ragionamento, no, che mi è venuto in mente prendendo spunto dalle dichiarazioni di Allegri e di El Shaarawy questa settimana, no? Allegri ha detto che gli davano fastidio un pochino orecchini, creste varie, e El Shaarawy forse ieri o l'altro ieri penso gli abbia risposto che a lui la cresta ci tiene, no? E stavo pensando ai diritti d'immagine del Milan, perché mi sembra di vedere che Balotelli, El Shaarawy così sono molto appetibili dagli sponsor, no? Visto che fanno pubblicità, anche forse per il loro look, no? Sì, appunto, sì, perché sì. Allora stavo pensando se Allegri non avesse fatto quasi mezzo autogol. Tutto qua. No, mezzo autogol credo di no. Certamente il discorso che fa lei è estremamente corretto, perché i giocatori sono personaggi, e questo loro essere personaggi anche qualche volta fuori dalle righe può permettere loro di guadagnare dei soldi attraverso questa via. Quindi non fa una piega quanto lei dice. Piuttosto mi interessa un altro discorso. Ma è vero, ti risulta che i giocatori del Milan si siano rifiutati di andare a ritiro? Cioè, pare ci volesse essere questo ritiro prima della partita, e pare che i giocatori abbiano detto no. Credo che ci sarà da stasera, credo. Sì, ma ti risulta che... No, non mi risulta niente, sono ignorante in materia, e... però insomma, sai, il ritiro, già il fatto che sia stato pensato, sì, per quella che è la mentalità del Milan in questi anni, no? Che è una mentalità molto progressista, insomma, che è qualcosa di abbastanza inedito, che in qualche modo racconta di un momento delicato dal quale la squadra prova ad uscire anche con dei metodi, diciamo, un po' più tradizionali, un po' più da pugno duro. Quindi è comunque un indice, una spia di disagio, ma insomma è normale, il Milan deve fare qualcosa, deve svegliarsi se vuole uscire da questa situazione. Andiamo ancora? Andiamo, Fabio. Sì, pronto? Eccoci. Ciao Fabio. Ciao, buongiorno. Intanto grazie al solito per avermi convocato, perché è la prima volta che ce la faccio, ero rimasto ad un paio di interventi con il buon Garanzini. Grande Fabio, grande. E complimenti per la coppia, veramente eccellente. Eccezionale, soprattutto gente, soprattutto gente. No, siete ben assortiti. E volevo rifarmi all'intervento che aveva di poco fa dell'ascoltatore juventino che si preoccupava della cessione di Moratti. D'altra parte questo è un po', credo, il pensiero comune della juventinità e anche del suo allenatore, visto che in un'intervista di un mese e mezzo fa, il buon Conte aveva detto come così l'Inter non aveva lasciato nulla con le sue vittorie della squadra che era rimasta. Io penso che vincere una Champions non necessariamente deve essere un punto di partenza, ma può essere anche un punto d'arrivo, e sono invece sicuro che lo stesso Conte sacrificherebbe molto ben volentieri la sua folta capigliatura che ha costruito negli anni per vincere quello che ha vinto l'Inter negli ultimi anni. Mi piacete così. Detto questo, vi ringrazio. È chiaro che quella Champions fu il punto di arrivo dell'Inter di Moratti, di Mourinho, e secondo me fu il punto di partenza dell'Inter di Toir, perché da lì è praticamente finito un ciclo e si tratta di costruire uno nuovo. Squadra di adesso è un po' a metà del guado. A proposito di domande difficili, ti risulta che Mazzarri sarebbe a rischio con l'arrivo di Toir? Ma penso proprio di no. Mazzarri. Si sentono due nomi, uno è Frank de Boer, l'altro Montella. Ma... te la dico così. Sì, te la butto lì così. Io penso proprio che Io penso proprio che non sia così, nel senso che comunque Mazzarri fino a questo momento ha fatto molto bene. Chiaramente la stagione all'inizio, la sconfitta con la Roma in qualche modo ha ridimensionato anche da un punto di vista di classifiche e di ambizioni, però insomma c'è tutta una strada davanti aperta. Poi che Toir arrivando possa avere, diciamo, il gusto di portarsi qualcosa e qualcuno, credo che questo sia abbastanza normale, anche perché uno non è che spende 250 milioni per prendere il 70% di una società per non cambiare nulla, no, certo, o per passare come essenzialmente un conservatore. Quindi qualcosa farà sicuramente, ma credo che Mazzarri ha tutto, ha il destino nelle sue mani, nel senso, sì, che se fa una buona stagione Mazzarri rimane e può costruire magari con una squadra ancora più forte e con degli acquisti in più. Quindi comunque capiremo tutto, Pierluigi, quando avremo il nome di colui che sarà il, certo, il preside, il Boniperti dell'Inter, che non credo che io non credo onestamente, a proposito di quello che facevi prima, non credo che, se come pare comunque Moratti conserverà un ruolo importante in società, io non so dirti il motivo, perché il motivo non lo so, però mi attengo a quello che si è visto negli ultimi anni. Certamente insomma, se Oriali è fuori dall'Inter, è fuori dall'Inter perché qualcosa si è rotto nel rapporto con Branca e con Moratti, non penso, sì, che sia fuori all'Inter per scelta, e quindi non credo che sia lui il favorito, mentre mi risulta che con Leonardo i rapporti sono eccezionali, uh-huh, e che Leonardo, anche un po' per la sua, per il suo allure, come dico in francese, ti piace allure? Sembra un po', c'è una fame, gente, la situazione è drammatica, no, nel senso, il suo fascino, il suo appeal internazionale per il calciatore che è stato, negli ultimi anni gli può dare anche, sì, una carta in più. Poi c'è stata l'esperienza del Paris Saint Germain, per cui io fra i due vedo l'esperienza del Paris Saint Germain. Cosa c'è stato, non mi ricordo più, c'è stato il Milan, l'Inter e poi il Paris Saint Germain. È stato il Milan, l'Inter, poi come è finita con l'Inter che non mi ricordo. Vabbè, ma adesso, va bene, tutto in cavalleria, così come la sua squalifica che è stata condonata. Mamma mia, gente. Andiamo, no, da Marco. No, no, no, ma per la cronaca, Marco e Franco. Partiamo da Marco. Marco da Milano. Marco? Sì, ciao, ciao, grazie per la convocazione. Sei tonico? Sei pronto a rispondere, sono a questa? No, sì. Alla grande, tonicissimo. Vai, un minuto di qualità, forza, dai! Velocemente, una considerazione e una domanda soprattutto per te, Pierluigi. Allora, sul discorso Toir Moratti, io credo che non sia un problema sentimentale, credo sia finito un ciclo, sia corretto anche provare a vedere, ad aprire a nuovi orizzonti, voglio dire. Spero che adesso non saremo ad aspettare un nuovo Moratti, perché appunto non so se Gigio in futuro potrà prendere le orme del padre, ma io spero che Toir faccia bene da subito. E un'altra considerazione su Ronaldo, numero uno in assoluto, sono d'accordo con Mentana. E poi una domanda per concludere su Cassano. Cosa dice? È veramente arrabbiato con Prandelli? Ha possibilità di andare al mondiale? Finalmente fare un mondiale o no? Tu che lo conosci bene. Ma, grazie mille. Vabbè, faccio proprio il portavoce. No, io credo che insomma l'intervista l'avete sentita l'altro giorno. Non credo sia arrabbiato con Prandelli. Semmai è un po' sorpreso perché credo che quando, dopo l'europeo, comunque si erano sentiti in estate, c'erano le prime amichevoli, sembrava un percorso ancora da vivere insieme. Invece poi, da quello che so, non ci sono stati praticamente più contatti, quindi sicuramente è lui il primo a essere un po' sorpreso di questa situazione. Prandelli gli ha risposto l'altro giorno in conferenza stampa, si parleranno a voce, credo che insomma quella sarà la soluzione. A me sembra molto improbabile, però non mi sembra neanche impossibile, nel senso che comunque alla fine, se Cassano dovesse fare 4-5 mesi molto bene, dovesse arrivare in grandi condizioni, vale un po' il discorso che facciamo oggi per Totti, insomma, quelli sono giocatori che si conoscono già, per cui quando tu arrivi a fine aprile, inizio maggio, devi valutare chi sta meglio, chi sta in condizione, e uno di questi magari verrà convocato. A mio parere non ci va né uno né l'altro ai mondiali, però questa sì, è mia idea. Sono le due ipotesi più probabili, tutte e due. Allora, più probabile che ci vada Totti di Cassano, secondo questo me, in questo sì, momento. Questo sì, Cassano proprio non ce lo vede ai mondiali. Abbiamo giornale radio, Franco da Milano ci aspetterà. Certo che con ci aspetta, noi Franco, le notizie. Anzi, abbiamo 8, grandi notizie. 800240024, poi arriveranno anche tutti gli altri. Tutti convocati. Adesso, caro Pierluigi Pardo, facciamo ripetere a Franco da Milano i titoli del GR. Franco? Franco? Pronto? Franco, pronto? Piccolo test. Che ha detto Marino su Pripke? Hai seguito il GR? Pronto? Vabbè, no, dai, andiamo. Dimmi, Franco, vai. Dimmi. Allora, giusta, scusa, io ho dovuto mentire, sono Ettore. Ma infatti. Io sono un interista doc. E mi dispiace tanto che Moratti abbia venuto, però sono scelte sue, ha fatto bene. Senti una cosa, sì. Pierluigi mi deve mandare l'invito per la sua trasmissione. Non è ancora arrivato? Non è arrivato, non è arrivato. Non me l'è ancora arrivato, ma lo puoi passare per Luigi? E sto qua, siamo. Te lo passo. Cioè, non è che siamo a non è casa. Aspetta, aspetta un attimo che arrivi. Sto sotto la doccia di che arrivo fra un minuto. Sì. No, mandami l'invito che vengo a vedere la tua trasmissione, io mio collega. Così quando usciamo di lì c'è i taxi, qualcuno ha bisogno di taxi, li portiamo a casa. Ah, fantastico, quindi uniamo grande business. Così con la joint venture. Senti, ma sei contento di Toir? Ma è un po' dispiaciuto, però se Moratti ha fatto quella scelta lì, l'ha fatta lui. Sono tanto contento e felice, però cosa vuoi che ti dica? Io non posso sapere tutte le cose che hanno loro. Che, come non le sai? Senti, e invece non puoi dirle, ma in realtà le sai. 5 euro su Roma Napoli, 5 euro su Roma Napoli. No, aspetta. Franco, Franco, Ettore. Su Roma Napoli metto di più. Metti di quanto? Ma adesso a parte metti di più, dobbiamo invitare la gente a giocare responsabilmente. Ecco, la gente gioca responsabilmente e Ettore fa quel che gli pare. Allora, per lui ci siamo in quattro, non è che gioco tutto io. Ah, siamo ok. 50 euro per uno non è che ci cambia la vita. Non fa male a nessuno. Vabbè, ok. Senti, ma venerdì hai da fare? Venerdì no. Bene, allora ci sentiamo, facciamo un picchetto insieme. Scegliamo qua, no, ti dico al telefono, ti chiamiamo, scegliamo quattro partite e tu ci dai consigli. No, io i consigli non te li posso dare perché non ci capisco un cazzo. Ecco. Scusa. No, ma è così, è radiofonico. No. Sì, l'avevamo capito perché ricordiamolo, diciamo a chi non si ricorda di Ettore che ci aveva comunicato 500 euro sicuri sulla vittoria dell'Inter con la Roma. Abbiamo giocato in quattro, dopo li abbiamo recuperati, capito? Per lui. Sì, comunque ti voglio dire una cosa, mandami l'invito lì che voglio venire la tua trasmissione. Va bene. Fatto, io faccio il garante. Te lo mando Ettore, però andiamo avanti con Ciano, capito? Dai. Grazie. Forza Ettore, te lo mando, giuro che te lo mando. Con i taxi di fuori per gli ospiti, Melissa Satta, Lucia Blini. Un computer sottilissimo, bene. Grazie, bravissimo. Grazie a tutti. Se me lo mandi, poi mi dici anche dove sei. Siete lì a Colonia Maltese. Sì, siamo lì a Colonia. Ciao, grande. Massimo da Udine. Hai capito? Grande hai capito, hai capito cosa ha fatto? Ha trasformato un business. No. Perché? Ho mentito, credevo Gerzi, un genio. No, aspetta, ho mentito. Non Massimo da Udine, Ettore, tu sei Massimo da Udine o hai mentito anche tu? Sei Massimo da Udine? Da Udine ho sentito anch'io, sì. Allora, vi chiamavo per dirvi se possiamo un attimino tornare al tema della nazionale, no? Perché abbiamo parlato di tante cose che riguardano l'Inter, Toir e tante cose. Torniamoci. Cioè, volevo così anche una vostra opinione sul fatto che si sia un attimino, no? Anche se vogliamo così. Passati sopra a una prestazione che a mio modo di vedere è stata quantomeno irritante, perché pensare di doversi giocare una qualificazione già ottenuta per una testa di serie al mondiale, vedere una squadra che ha giocato con quella poca determinazione, con quella poca grinta, mi ha dato fastidio. Sinceramente nell'era di Prandelli avevo avuto la sensazione che ci fosse stato un cambio di passo in questa direzione, una squadra impostata al gioco, a proporre del gioco. Da quando abbiamo ottenuto la qualificazione sono passate due partite e abbiamo giocato con la Danimarca e con l'Armenia, il girone più facile in assoluto delle qualificazioni mondiali, ho visto una squadra che è ritornata agli albori della nazionale italiana che tutti non vorremmo più rivedere. Guarda, Massimo, Massimo, scusami, poi lasciamo a Matteo e poi andiamo da Berinazzo. Però quello che volevo dire è che insomma, questa nazionale ha ottenuto la qualificazione in carrozza, in scioltezza. Queste due partite sono state approcciate male ed è proprio per quello che dicevamo, che senso ha se tu vuoi trasmettere degli input alla squadra, stravolgere la formazione nelle due partite. Io credo che un input di questo tipo debba partire dall'approccio, dalla panchina, dalla formazione. È chiaro che se Prandelli dice queste due le giochiamo con la squadra titolare, esperimenti, vedremo, dobbiamo vincere almeno una di queste partite, allora viene fuori qualcosa di diverso. Sono state approcciate proprio con lo spirito dell'amichevole e in più, intorno a questo spirito amichevole, si è innestato tutto quel casino che ben conoscete. Il risultato è stato questo. Il risultato è stato pessimo. Grazie Massimo. Matteo. Pronto? Pronto? Sì, dica. Ciao, sono Matteo da Cassano d'Adda. Celebre Cassano d'Adda. Provincia di Milano. Cassano d'Adda, quello che ha giocato al Bari, sì, scusa. Vabbè, vai. Guarda, sinceramente io sono anti Cassano come si è comportato col Milan. Ah, ok, ok, quindi sei di anti Cassano Dadda, perfetto. Sì, bravissimo. Allora, innanzitutto volevo farvi i complimenti a entrambi per la trasmissione. Sì. E poi fare i complimenti anche a te, Pierluigi, che hai veramente un accento romano simpatico. Grazie, quello. Perché invece quello di Cruciani è odioso. Quello di Cruciani è differenza di... L'hai detto tu. Io l'ho detto, sì. Vabbè, passo alla domanda. Allora, io sono milanista e, come ben capito, volevo chiederti, ma come sarà il Milan dell'anno prossimo? Come sarà? Allenatore e giocatori. Prandelli in panchina, secondo me, dove l'altra grande possibilità per Prandelli è la Juve, perché chiaramente se Conte dovesse fare un'esperienza magari all'estero si aprirebbe anche quello scenario, però secondo me Prandelli è destinato al Milan. Secondo me al momento è l'ipotesi più probabile. Credo che Prandelli finirà in una di queste due e penso che ad oggi sia 60% Milan, 40% Juve. E poi Speriamo che tu abbia ragione. Dal punto di vista della qualità della squadra, bisogna capire un po' che vuole fare la società, nel senso che è abbastanza evidente che una fase, quella degli investimenti folli, è finita. Negli ultimi anni il Milan comunque ha centrato dei grandi colpi di mercato, perché sai, Ibrahimovic è stato l'uomo capace di cambiare completamente la storia di quella stagione, di portare lo scudetto al Milan. Thiago Silva comunque è stato un giocatore importantissimo, però insomma io credo che adesso bisognerà capire che tipo di approccio ci sarà. Quello degli ultimi anni mi sembra un approccio di una società che cerca il colpo ogni tanto, ma che non riesce ad avere la forza per fare un mercato a livello delle altre. Galliani te lo spiega tranquillamente, te lo spiega per un discorso proprio di fatturati, quindi non c'è, è un discorso legittimo, ma è chiaro che se il Milan non cambia passo è abbastanza difficile. Cioè, l'autofinanziamento, e questa è una politica dichiarata del Milan. Sappiamo che per l'autofinanziamento arrivare in Champions League è decisivo, e per come è cominciata la stagione, non soltanto del Milan, ma di quelle tre davanti che corrono tantissimo, la distanza verso la Champions è già enorme, per cui il rischio per il Milan è quello di non riuscire a fare. Io sono sicuro che recupererà posizioni, ma credo che sia molto difficile che possa ottenere il terzo posto, proprio perché quest'anno, certo, quelle sopra corrono di più e sono molte, anche per ragione numerica. Ecco Marco Bellinazzo, che è uscito dalle gallerie di ieri. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Oggi il collegamento dovrebbe essere più semplice. Senti il rumore dei soldi, registratore di cassa, tutto per te. Money dei Pink Floyd? Money. Senti Marco Bellinazzo, io voglio chiederti due cose molto semplici. La prima. La prima. Sono pronto a rispondere. Chi sarà l'uomo forte di Toir? Hai fatto una domanda che ti stanno facendo in molti anche all'interno della società nerazzurra. Siamo qui a pettinare le bambole. Le poltrone sono infuocate, è difficile restarci attaccati. Si sta ragionando davvero, i nomi di cui si è fatto, Leonardo, insomma, è ancora presto, si sta ragionando perché bisognerà da parte della nuova proprietà indonesiana entrare materialmente negli uffici, capire un po' come le cose sono andate in questi anni, sicuramente non bene, e rimettere mano a tutto quello che è il modello di governance dell'Inter. È chiaro che si cercheranno di mettere uomini di fiducia e uomini che sappiano di calcio, soprattutto che abbiano una visione internazionale. Per quello il profilo di Leonardo io non lo scarto a priori, sia chiaro, però davvero non c'è ancora una lista dei papabili, insomma sarà fatta in queste settimane. E tu ce la dirai in anteprima. Seconda domanda, poi ti lascio a Pardo. Seconda domanda, mi spieghi questa storia del paracadute per cui se le cose non vanno bene la società torna Moratti? Guarda, sinceramente non ho riscontri su questa clausola di cui si parla tantissimo. Mi meraviglierebbe dal punto di vista economico-finanziario un dietro front, insomma, di questo tipo, con un presidente che è stato comunque costretto a vendere per questioni economiche, al di là di quella che è la vulgata che si legge in giro, e chiaramente tornare poi in possesso della società, ricomprarla con questi chiari di luna, mi sembrano davvero situazioni improbabili, insomma. Dopodiché ci sono centinaia di pagine di contratti da andare a leggere, sono curioso di andarla a vedere, chissà che non sia stata inserita qualche clausola strana, insomma, ma mi meraviglierebbe troppo conoscendo la reale situazione dei fatti. Ma Toir quanti soldi ha? Molti, immagino, ma nella gerarchia dei ricchi a che livello è e che tipo di approccio avrà? Cioè sarà un presidente, come si sente dire in giro, abbastanza parsimonioso, oppure gli verrà l'Abramovicite? non è tra i più ricchi al mondo, ma la sua famiglia ha un patrimonio di una dozzina di miliardi di dollari o di euro, insomma, quindi parliamo di un patrimonio davvero sterminato, che potrebbe permettere, che avrebbe permesso in altri tempi operazioni straordinarie. Per quanto riguarda invece la realtà, nei prossimi mesi non mi aspetto operazioni alla Manchester City o alla Abramovich prima maniera, cioè non aspettiamoci operazioni da oligarca russo, da sceicco. Ci sarà sicuramente un risanamento dei conti, si continuerà a risanare i conti, anche perché l'Inter sarà sanzionata l'anno prossimo dalla UEFA in quanto non risponde ai parametri del fair play finanziario, non sarà escluso dalle coppe qualora si qualificasse, ma comunque riceverà una sanzione, e quindi dopo che si sarà rimesso mano ai conti e che magari Mazzarri avrà riportato la squadra in Europa, si penserà ad investire, ma investimenti che vedo sempre mirati in una logica di valorizzazione dei giovani e qualche colpo importante, insomma, non per intenderci corti come ha fatto il Monaco appena tornato nella Ligue 1 francese. E per finire, risultato secco di Roma-Napoli. Beh, andrebbe benissimo un pareggio. Bravo. E non aggiungo altro. No, cosa vuoi aggiungere? Sei il tifoso del Napoli, sono anch'io che ti va benissimo un pareggio. Anche a te va bene, Pierluigi. No, io ti voglio segnalare che Aurelio De Laurentiis, otto minuti fa, ha risposto a un tifoso che gli chiedeva, perché oggi c'è Ask ADL, no? Sai che Twitter domina, quindi i tifosi fanno le domande e gli chiedono come sta vivendo l'attesa per la partita di venerdì. I riti scaramantici, tra l'altro, noi l'altro giorno l'abbiamo intervistato. Sì. Lui viverà la partita da California. Dice che è una lunga, unica scaramanzia. I giorni d'attesa sono troppi. La sofferenza dell'attesa si comincia a far sentire. De Laurentiis direttamente. Il giorno lo chiamiamo. Dalla California. Tra l'altro, sono le 6 e 16 di mattina in California, quindi lui non dorme mai. Ciao Pier, grazie. Ciao. A domani. Finito così? Domani. Sì, la musica è finita, gli amici se ne vanno. Adesso c'è. Adesso c'è Soundcheck. Che lo sai, Roberto Scaltritti in regia, Giorgio Luca, autore di questo programma. Ciao, a domani. Ciao.